24 mattino. E allora le 8:18 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, parliamo di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno. Eccoci a qui. Tutti, eccoci. Allora, eccoci ci qua. Parli, fai oggi, sì. Ci trattiamo un bel tema di quelli piacevoli da trattare e non ce ne voglia il nostro ospite, è da trattare alle 8:18 del mattino. Esatto. Dove si può andare alle 8:18 del mattino a parare con tanto amore? Verso le spese dentistiche. Dal dentista. Esatto, spese dentistiche che potrei dire affliggono gli italiani quasi quanto il mal di schiena affligge te, Alessandro. Non me ne parlare. Quindi tanto, tantissimo. Non me ne parlare che non dormo da varie notti. In realtà no, la nota che mi aveva preparato la mia collaboratrice Valeria Coffaro diceva: le spese dentistiche affliggono gli italiani quasi quanto lo stesso mal di denti, perché pensate, c'è chi è disposto ad andare all'estero pur di risparmiare. C'è questa incredibile nuova frontiera dei tour operator che propongono viaggi organizzati per bocche disastrate. Si tratta di qualcosa come 20.000 persone che ogni anno dall'Italia vanno in alcune città dell'est Europa per farsi curare i denti. E allora chiaramente questo era un problema che non poteva non essere preso in considerazione nel nostro paese, e qualche tempo fa è stato firmato un accordo tra l'ANDI, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, e il Ministero della Salute per offrire prestazioni dentistiche a prezzi calmierati per le fasce più deboli. Buongiorno e grazie di essere a Soldi e Dintorni con noi questa mattina, Roberto Callioni, che è il presidente nazionale dell'ANDI, l'Associazione appunto Nazionale Dentisti Italiani. Dottor Callioni, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, il tema è capire intanto se le persone interessate a queste prestazioni calmierate per prestazioni sanitarie, scusate il gioco di parole, vengono raggiunte da queste informazioni. Intanto, come è nato questo accordo? Perché in realtà è diventato, da quello che ho capito, operativo da poco più di un mese, ma in realtà è partito molto più tempo fa, dottor Callioni. Sì, partì con un confronto con il governo precedente, con il ministro Turco, poi il progetto fu valorizzato dall'attuale viceministro Fazio, che tenne conto appunto delle difficoltà dell'erogazione delle prestazioni odontoiatriche e naturalmente andò a chiedere alle associazioni di categoria più rappresentative se erano disponibili a questo tipo di accordo anche per supplire le difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale. E così nel luglio del 2007 si andò alla sigla dell'accordo tra Ministero, tra l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani e tra l'OCI, che sono gli odontoiatri cattolici italiani. Ecco. Questo accordo sostanzialmente si è sostanziato un mese fa circa, con l'inizio delle adesioni da parte dei pazienti che hanno incominciato a telefonare al nostro call center per comprendere quali erano i requisiti per poter fruire di questo accordo. Ecco, infatti, perché ci sono anche in questo caso, come spesso capita, dei requisiti reddituali da rispettare. Però intanto ci spiega, dottore, quali sono le prestazioni che godono di questa agevolazione, in che cosa si concretizza appunto allora il progetto delle tariffe calmierate? Sì. Sono cinque prestazioni fondamentali che vertono: le prime sul versante preventivo, quindi abbiamo una visita, l'ablazione del tartaro e l'istruzione all'igiene orale, il tutto per 80 euro. Poi abbiamo una seconda prestazione relativa all'applicazione di sigillanti occlusali, quindi quella vernicetta che contiene fluoro da porre sui molari, sui premolari nei bambini fino comunque all'adolescenza. Per 25 euro molare e premolare, e queste sono due prestazioni volte a valorizzare il momento preventivo, la fondamentale, certo, per cercare evidentemente di tornare a visitarvi, ecco dottore. No, stavo scherzando. Esatto, ma comunque la visita di controllo rimane una cosa fondamentale. No, certo. No, tanto per fare, ecco, poi magari visitando i siti vostro del Ministero della Salute si possono controllare anche tutte le altre prestazioni che godono di questa agevolazione. Mi chiedo qual è mediamente, dottore, la differenza di prezzo per la prima prestazione, per esempio, che ci ha indicato, la visita odontoiatrica, l'ablazione del tartaro e insegnamento dell'igiene orale. Voi praticate 80 euro, mediamente tutto questo quanto costa da un dentista normalmente? Ma tengo conto che è un regime di professionale, quindi è molto difficile definire. Diciamo, per cercare di dare un senso, potremmo dire che nell'insieme le tre voci possono arrivare sui 150 euro, ma ripeto, quindi, insomma, siamo un po'... proprio per dare un contributo in termini. Tenga conto che le altre prestazioni, perché sono cinque, le ultime due, tra virgolette, vanno viceversa incontro alla fascia di popolazione meno abbiente, più anziana, in modo particolare edentula, e quindi la cosiddetta dentiera, protesi movibile, sono 800 euro, e qui faccia conto che anche qui, tenendo conto di un range di riferimento tariffario, spazia normalmente dalle 1200-1500 euro dicendo. Allora, io volevo ricordare, certo dottore, perché abbiamo pochi minuti di tempo, intanto chi ne ha diritto, quattro categorie: coloro che hanno un reddito ISEE annuo non superiore a 8000 euro, coloro che godono dell'esenzione dei ticket sanitari, hanno un reddito ISEE non superiore a 10000 euro, le donne incinte, le fasce che posseggono la social card. Come possiamo sapere qual è il dentista più vicino a casa nostra che aderisce a questa convenzione, chiamiamola così, dottore? All'osservatorio bisogna andare sul sito del Ministero, www.ministerosalute.it, dove c'è l'elenco provincia per provincia italiana dei dentisti italiani che hanno aderito. Oppure su obiettivosorriso.it, che è il sito dedicato all'Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani, dove anche qui c'è questo elenco. Ma quanto prima nelle farmacie italiane, nelle sale d'attesa dei medici di famiglia, verranno posti gli elenchi dei dentisti della zona che hanno aderito volontariamente, sperimentalmente, l'accordo, in modo tale da agevolare appunto il paziente nella ricerca del dentista più vicino. Benissimo, c'è anche un numero verde, l'ultima informazione di servizio è l'800 911 20, anche in questo caso con questo numero verde possiamo reperire tutte le informazioni su questa iniziativa. Dottor Caglioni, grazie per essere stato con noi, complimenti per questo progetto, e quando avrà, come dire, una statistica su come è andata, ovviamente torneremo a sentirla. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci, Alessandro. A voi. E allora, tra poco, Salvadanaio. Oggi borsa, è stata una settimana di nuovo piuttosto turbolenta. Oggi ci focalizzeremo su Piazza Affari. Mannaggia. Alle 8.31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, uno sguardo alle notizie in primo piano. Sul tema immigrazione interviene il presidente Napolitano. Preoccupa la retorica xenofoba, si diffondono accenti di intolleranza, dice il capo dello Stato. Sono contro la xenofobia da sempre, replica Berlusconi. Intanto è stata approvata alla Camera in via definitiva il pacchetto sicurezza, con il leader del PD Franceschini che evoca il ritorno delle camicie nere. Ancora annunciato, ancora rimandato il piano casa, non c'è infatti intesa tra governo e enti locali, e ieri è stata rinviata la conferenza che doveva tentare l'intesa finale per consentire il varo da parte del Consiglio dei Ministri di oggi. Carceri galleggianti per contrastare l'aumento dei detenuti. Il piano ipotizzato dal Dipartimento Penitenziario potrebbe essere attuato in 2 anni. I siti identificati per le possibili prigioni sull'acqua sono le grandi aree portuali come Genova, Livorno, Napoli e Bari. Infine vi ricordo, oggi c'è lo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale in fasce orarie per diverse città. Garantite le fasce protette, ma previsti inevitabili disagi sul traffico. Tutto questo alle 8.32 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Io ho davanti a me un libro, si intitola Passionaccia, è edito da Rizzoli, sono 185 pagine in cui si condensano 30 anni di giornalismo, vissuti in gran parte da protagonisti, in gran parte anche da direttore. Tutto questo si intreccia, insomma, con gli avvenimenti di politica, di cronaca, di attualità degli ultimi 30 anni. L'autore, che è nostro ospite oggi, è Enrico Mentana, che saluto. Mentana, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la passionaccia è quella per il giornalismo, insomma, lei scrive, la passionaccia è la sfida quotidiana, il mestiere per il mestiere, quell'ebbrezza di avere in mano il potere della notizia e anche di dire no al potente vero che vorrebbe modificare o nascondere un resoconto. Le è capitato spesso di dire di no in 30 anni? Beh, capita spesso, soprattutto la cosa importante è cominciare a dire di no all'inizio, così poi ci si prende le misure reciprocamente. Fatalmente, come succede alla sventurata manzoniana, se uno risponde, poi ovviamente entra in un meccanismo di subitanza. La cosa importante è ricordare sempre che l'interesse prevalente, il potere prevalente da servire, è quello di chi ti segue, perché è quello che ti dà la forza per numeri e anche per rapporto diretto, di fiducia. Allora, 30 anni di giornalismo, come condensarlo in 185 pagine non è facile. Inevitabile però, Mentana, partire dalla coda, no? Lei lo fa anche nel suo libro, da quel 9 febbraio, il giorno della morte di Eluana. Lei lo rievoca, ne riscrive tutta la cronaca, insomma, la vicenda che portò poi alla sua fuoriuscita da Mediaset. Lei però scrive, tanto per dirla tutta, scrive a pagina 163, la mia posizione si era già fatta precaria dentro Mediaset. Matrix non era considerato un prodotto indispensabile. Insomma, non ci fosse stata quell'occasione, ne sarebbe arrivata un'altra? Ne sono abbastanza convinto. Ne sono abbastanza convinto e lo spiego abbastanza chiaramente nel libro. E non ne faccio neanche un dramma, lo dico subito, perché io non ritengo che esistano persone indispensabili o, come dire, cartine di tornasole della democrazia, per cui se io sto seduto su una poltrona c'è la democrazia, se ne vengo rimosso non c'è più la democrazia. Non penso che nessuno sia indispensabile, penso che nella vita professionale tra giornalisti e editori succeda quello che può succedere nella vita privata tra marito e moglie, lasciando perdere il divorzio di cui tutti parlano, cioè semplicemente che a un certo punto si esce di sintonia e si capisce che le cose non si recuperano più, finché non arriva il casus belli, che nel mio caso è stato appunto la vicenda di Eluana, a far precipitare tutto. E si era rotto qualcosa quella notte del 21 aprile, da cui lei vuole partire, insomma, in cui rivela anche di questa cena elettorale, cena con... post-elettorale, no, perché lei... Era una riunione che io pensavo una normale riunione operativa, in cui a lungo si parlò soltanto invece di fatto che avendo vinto Berlusconi, allora le cose cambiavano in meglio per il gruppo, insomma, tutto quello che poi... Invece di raccontare io, ho ritenuto giusto riassumere o ben identificare con una lettera privata che ho scritto quella notte stessa al presidente di Mediaset. E che è diventata pubblica, perché lei l'ha scritta nel libro, dicendo, denunciando, insomma, l'azienda più che altro è diventato un comitato elettorale. No, io non ho denunciato, ne ho parlato con quello che era il capo dell'azienda, quindi non è che ho fatto una denuncia o un tradimento. Ho voluto dare il senso, il termometro di com'era... com'era la mia percezione allora, con un atto che è inequivocabile, una lettera privata mandata direttamente a Confalonieri. Non è... ci sono quelli che vanno in giro a fare i martiri, lo sappiamo, no? Ecco, io non ho fatto nessun martire, ho raccontato le cose come sono successe e ho pubblicato quella lettera, anche perché quella lettera dimostra anche il contrario, ovvero che fino a quel momento io pensavo e ritenevo a ragione di essere in un gruppo polifonico in cui si poteva far tutto, c'era spazio per tutti e insomma, l'articolazione dei prodotti era garantita in tutti i sensi. Non dimentichiamo che stiamo parlando della stessa Mediaset che mi ha permesso di fare per 13 anni il direttore del TG5, in cui, lo garantisco, lo scrivo nel libro, ma penso sia abbastanza risaputo, non è che sono stato a ascoltare grandi direttive. No? Questo sì, o sai che oggi Confalonieri le risponde, io non so se lei ha già avuto modo di vedere i giornali, ma c'è un'intervista a Chiara Bede d'Argentini, proprio Fedele Confalonieri, sulla stampa, e proprio all'accusa della polifonia di voci che secondo lei è venuta a mancare a Mediaset, dice in maniera 3 righe, Confalonieri, con tutto il rispetto per Mentana, credo di saper più di lui cos'è la polifonia o il canto gregoriano, non aggiungo altro. E passa oltre, insomma. Siccome è notoriamente diplomato al conservatorio, non posso che accusare ricevuta da questo punto di vista. Io credo che se tutte le persone che hanno responsabilità nel settore dell'informazione di un'azienda così ampia, no, che produce 3 telegiornali, tante rubriche, se tutti professano al momento del voto la stessa opzione, insomma... Questa è una cosa un po' diversa evidentemente, perché evidentemente i prodotti sono tutti quanti rivolti allo stesso pubblico, o hanno una, come la possiamo definire senza offendere nessuno, perché poi tra l'altro, apro una parentesi, è ovvio che a Mediaset ci sono degli straordinari professionisti come ci sono ovunque, e non è certo un peccato ad esempio avere le stesse idee della maggioranza pressoché assoluta degli italiani, no? sarebbe ridicolo dire il contrario, ecco, però se è tutto così, poi succede che appunto da cronisti, da osservatori della realtà si diventa un'altra cosa a lungo andare. C'è ancora una domanda, poi parliamo un po' del libro, insomma, che condensa sì, 30 sì, anni, sì. Quella sul fatto della lettera nella quale lei scrive mi aiuti a uscire, no, presidente? Cioè, sì. Che voleva dire mi faccia uscire da questa azienda, ma perché non poteva farlo? Non poteva dire... Mi pareva una cosa di elementare educazione, di non uscire in maniera atroce, visto che avevo continuato a fare tutto quello che volevo. Racconto nella pagina precedente o 2 pagine prima che ero stato è, come si sa, l'orchestratore dell'ultimo indiretto faccia a faccia tra Veltroni e Berlusconi, e anzi mi ero preso il lusso di fermare e bloccare Berlusconi, che voleva parlare fuori tempo massimo. Che disse era infuriato, l'ho visto uscire dallo studio, era infuriato. Beh, non è contento, non era, però insomma, quindi non stiamo parlando del fatto che evidentemente il problema non era di dire sono stato messo ai margini. Quando le cose sono cambiate, infatti è successo quel che è successo, ma non stiamo parlando di 60 anni prima, stiamo parlando di pochi mesi prima. Certo. E se posso aggiungere, evidentemente, qui stiamo parlando di una vicenda che è la mia vita. Ho visto tanta gente che ne parla soltanto per aver letto qualche anticipazione e trancia giudizi in un senso o nell'altro. Beh, almeno leggetevi la storia prima di... Questo non è ovviamente una propaganda, una pubblicità lì, ma chi ne vuol parlare per dire ha fatto bene, ha fatto male, eccetera, almeno legga quello che è successo. No, la storia poi è molto molto densa, ripeto. La storia poi è molto altro. Esatto, ovviamente sì. Ci sono anche dei riconoscimenti, perché un giornalista deve essere obiettivo. No, ma come non deve essere uno sforzo, deve venirgli naturale. Come lei ha detto, dopo tanti anni di puntate di Matrix ha fatto notizia per la puntata non andata in onda. Insomma, anche qui il libro si parla di quello, ma il libro in realtà parla di tantissimo altro, insomma, della sua vita professionale. Esatto. A questo proposito, 1980, lei entra in Rai, lo dice tranquillamente, in quota PSI, anche se nessun mio servizio potrete mai scorgere nulla al riguardo. Però le chiedo, la Rai era politicizzata, è e lo sarà sempre? È e lo sarà sempre? Beh, è ovvio, questa è una materia su cui basta una piccola bacchetta magica, sottrarre la Rai, che è la cosa più normale ma la più difficile da fare, dal controllo diretto del Parlamento, perché sin quando sarà il Parlamento a controllare, a governare la Rai, a scegliere i suoi amministratori, è ovvio che la Rai sarà un soggetto che vuoi non vuoi direttamente controllato dalla politica. E questo ovviamente può cambiare soltanto, hanno tentato di cambiarlo soltanto nell'anno di Tangentopoli, quando tutto l'edificio politico della Prima Repubblica crollò, ma durò solo un anno. Appena si è ricomposta la Seconda Repubblica è cominciato da una parte e dall'altra il controllo della RAI attraverso l'elezione di presidente, direttore generale, membri del consiglio di amministrazione e soprattutto direttori di rete di testate, nessuno dei quali sfugge all'etichettatura. Senta, in tanti anni di successi lei racconta anche alcuni errori, alcuni più o meno gravi. Uno, quello che lei dice mi ha fatto arrovellare, insomma, per tanti anni, è l'aver dato così tanto spazio in una famosa serata, in prima serata, un confronto tra l'allora ministro della Sanità Rosi Bindi e il professor Di Bella, quello della famosa cura Di Bella, cura per i tumori. Lei disse, cioè, cosa, si è pentito, ha dato troppo spazio? No. Non è che mi sono pentito, nel libro lo spiego, credo, sì, abbastanza, certo, chiaramente, certo. Se tu metti sullo stesso piano una cura alternativa con gli strumenti dell'oncologia ufficiale, poi probabilmente rischi di condizionare le scelte, che non sono scelte di andare al cinema o di comprare un libro, sono scelte di come tentare di curarsi per sfuggire alla morte. Non stiamo parlando di cose di poco conto. Ecco, dare l'illusione che esistessero due strade alternative, ciascuna delle quali praticabile, può essere stato veramente un rischio per solo amore di una fascinazione che avevamo avuto in quella fase un po' tutti per la cura alternativa di Bella. Io so soltanto una cosa, che ovviamente, come si sa, non è lievitato quello strumento alternativo di cura. Questo sì, questa è la cronaca, visto che fu valutato. Un altro momento che lei racconta con molto trasporto, io lo dimenticavo, l'avevo rimosso, e questa è mia colpa, la vicenda Soffiantini. Io non ricordavo questa cosa, ma ha un impatto molto forte raccontata. Cioè, quando Soffiantini fu rapito, a un certo momento della prigionia, mandò una lettera, in quella lettera c'era anche una parte dell'orecchio di Soffiantini, e non la mandarono ai familiari, non la mandarono ai parenti, non la mandarono agli investigatori, la mandarono a lei, Enrico Mentana. Cosa prova in quel momento un uomo che fa informazione? Prova, si rende conto che lui stesso può entrare nel tritacarne, e si accorge di più quanto quel tritacarne può essere pericoloso. E poi insomma, entrano altri fattori. Ero abbastanza convinto sin dall'inizio che quella lettera fosse stata teleguidata dai rapitori. Ma cosa devo fare? Pubblicarla o non pubblicarla? Sono cose, appunto, così come quell'altra vicenda che abbiamo citato prima, sono cose che comportano la salvaguardia o la messa a repentaglio di vite umane. Ovviamente noi siamo soltanto gente che fa informazione, che cerca di farla bene, ma quando si trova di fronte a qualcosa di più ha dei problemi, ovviamente cerca di agire a lume di coscienza e consultandosi con le autorità costituite, ovviamente. Le ultime due domande flash, si è pentito di aver invitato Di Pietro, perché lei racconta lì, proprio me lo dicevano chiaramente, non dovevo più invitarlo Di Pietro a Matrix. No, mi sono pentito proprio per questo, cioè non, l'azienda del vietato vietare non poteva vietarmi una cosa. Certo, Di Pietro era stato uno degli ospiti più invitati nell'annata precedente, e questo ovviamente nel momento in cui era tornato invece ad essere un soggetto politico forte andava contingentato con tutti gli altri. Però non mi puoi dire, nessuno può dire a un giornalista che ha un ruolo editoriale e che vuole svolgere il suo mestiere del tutto liberamente, quello non lo puoi invitare. Questa è una cosa che non esiste in cielo e in terra. Ci puoi rischiare il posto, ma meglio rischiare il posto che rischiare un'altra cosa. E infine la domanda che mi arrovella anche a me da pochi anni che faccio giornalismo, lei lo fa da più di 30 anni, ha capito, visto che ne parla molto, di come ha modificato il linguaggio col TG5, eccetera, ha capito dopo 30 anni perché se io vado in Medio Oriente il Papa si reca in Medio Oriente, o se io arrivo da una parte il Presidente della Repubblica giunge da una parte? Lei è rimasto toccato, Milan, perché no, come tutti gli ascoltatori non capisco, io non mi rendo dalla più tenera età queste forme che non esistono, come il velivolo e la vettura, ma nessuno di noi usa queste parole nella realtà, e là non si capisce perché nelle scatole che si chiamano radio e televisione, in quelle pagine che si chiamano giornali, in quel quadrato luminoso che si chiama internet, si continua a leggere delle frasi di questo tipo al di fuori della realtà. È quella funzione autoelettiva che pretende di avere il giornalismo, per cui se parla una lingua un po' superiore fa notare che è colto, ma è colto dal panico. Sono fiero di non recarmi da nessuna parte, vado al limite, ecco, insomma, o arrivo e non giungo. Va bene, io la ringrazio. Enrico Mentana, Passionaccia, questo è il titolo del libro edito da Rizzoli, so che lo presenterà anche la Fiera Internazionale del Libro, ci siamo anche noi come Radio 24, ci vado a trovare se vuole, c'è un nostro stand. Grazie davvero a Enrico Mentana per essere stato con noi. Alle 8:48 minuti, l'ultima parte di 24 Mattino, parliamo di questo. Signori, allora, veloci, dinamiche e svelti, perché? Perché con noi il grande maestro di vita, Don Ansimento! Forse avete riconosciuta, forse dalla voce inconfondibile, Vanna Marchi. Io davanti a me un libro, tra l'altro è la settimana della Fiera Internazionale del Libro. Leggete libri, quindi è un altro libro, parliamo anche di questo. La strega della TV, Vanna Marchi, ascesa e caduta di un mito. L'autore è Stefano Zurlo del Giornale. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Bietti Media Albatros, perché tra l'altro non è solo un libro, è che adesso sta diventando qualcosa di più, una fiction, addirittura una proposta di cambiare la legge. Una legge, questo leggevo ieri, a proposta Iole Santelli, a partire da questa esperienza, insomma. Stefano, addirittura si può da un libro, da un'inchiesta, Striscia Notizia, portare a cambiare la legge? Ma io spero di sì, perché nel libro, oltre a raccontare tutta la storia di Vanna Marchi, in qualche modo poi cerca di raccontare, di descrivere anche un po' la pancia profonda dell'Italia, perché la signora di qui sopra, che sentivamo urlare prima, aveva un parco di 300.000 clienti, quindi è un pezzo d'Italia, insomma, e poi si fa presto a catalogare, a dire ma è quello un po' fuori di testa, un po' malato, in realtà la noia, la disperazione, la solitudine sono un po' dappertutto, a macchia di leopardo, al nord, al sud, fra i giovani, anziani, uomini e donne. Quindi dicevo, oltre a descrivere questo fenomeno, mi sono però poi posto un altro problema molto grave e drammatico. Come mai la signora Marchi è andata avanti imperterrita, ha imperversato sulle TV italiane per quasi 10 anni, nonostante avesse un pedigree non proprio specchiato? Perché già nel 90 era stata arrestata una prima volta per bancarotta, perché aveva fatto questo profumo che secondo lei avrebbe calamità irresistibilmente tutte le donne italiane, perché richiamava, diceva lei, il sesso maschile, e invece richiamò solo la bancarotta, perché rimase invenduto. 300.000 clienti, attenzione. Tra l'altro, ecco, e allora ecco, capisci, da lì quindi poi evidentemente qualche parlamentare si è letto il libro, come la Santelli, come l'avvocato Ghedini, qualcuno anche dell'opposizione mi ha contattato, sono rimasto in contatto come Gerardo D'Ambrosio, no, l'ex magistrato del PUL, e si sta ragionando, è stata presentata questa proposta di legge in Parlamento l'altro ieri, a cui anch'io ho partecipato, per cui si dice cerchiamo di migliorare i meccanismi con cui si persegue la truffa. Si vuole tra l'altro modificare quel testo unico, la legge pubblica sicurezza, cioè quel codice, la parte del codice penale che si occupa di proibire il mestiere di, tra virgolette, mettiamole mille, ciarlatano. Questo qui come al solito in Italia, no? Questa è la solita cosa curiosa, e poi quando si va in giro si vedono sempre le stesse cose. Tutto è proibito, però poi si fa, dice sì, però è una proibizione per modo di dire. Il testo unico del 31, quindi siamo in piena epoca fascista, che tra l'altro dice che il mestiere di ciarlatano è proibito. Ma cosa si intende lì per mestiere di ciarlatano? Lì si parla di indovino, si parla di cartomante, si parla di interprete dei sogni, cioè col linguaggio degli anni 30, ma si descrivono già molte figure che invece, se tu accendi oggi la televisione, le vedi a decine che dicono no, ma noi facciamo fattura regolare, non è un problema. Anche la signora Marchi faceva fattura regolare, tant'è che io nel libro racconto un episodio quasi alla Totò e Peppino, che ci fu l'ispezione della Guardia di Finanza alla di Milano, dove il suo quartier generale, dove stava con la figlia. A piano terra la finanza controllava che tutto fosse regolare, che fosse a norma, che non ci fossero questioni fiscali. Sì. Al primo piano il call center truffava gli italiani nello stesso momento, ma per mesi. Tra l'altro, Stefano, noi siamo in collegamento qui con la signora Fosca Marcon, che saluto. Ah. Buongiorno signora Fosca. Buongiorno, ci sente? Lei conosce Stefano Zullo, lei è quella che, insomma, grazie anche alla complicità di Striscia la Notizia, è stata la prima, possiamo dire, a smascherare tutta questa vicenda, che poi è diventata una vicenda processuale. Se tutti avessero fatto così, la cosa si sarebbe smascherata prima. Che cosa le avevano offerto? Dei numeri miracolosi per vincere? Cominciano con i numeri dell'otto. Sì. E poi se non vince dicono che è il malocchio. Questo malocchio costa milioni per toglierlo. Capito, io certo. La racconto in breve. No, è chiaro, no, nel libro è anche spiegato. Lei, ovviamente, c'erano le telecamere di Striscia Notizia, riprese tutte le chiamate, loro che venivano a prendere soldi. Tutto sotto controllo. Che effetto le fa sentire la voce di Vanna Marchi, che ricordiamo, tra l'altro, adesso è in carcere con la figlia? Sì, infatti. No, mi viene proprio da soprannominarla strega, non c'è niente da fare. Più di così, dai. È il titolo del libro, La strega della TV. Ma che ne pensa? Io ho sempre avuto una posizione anche un pochino critica, devo dire. 300.000 clienti, ma insomma, è così facile farsi raggirare? Lei che sa fare, purtroppo. Sapeva fare. Perché io ho conosciuto gente che hanno detto, guardi che io non ci ho mai creduto a quelle cose lì. Eppure ci sono cadute. Quindi capisci che aveva un modo da convincere le persone, ecco. Non è che partiva, tu c'hai il malocchio, mi devi dare i milioni. E no, la storia era lunga prima, i numeri dell'otto, c'era qualcuno che diceva, beh, vedo via, provo, tento, c'è nulla di male. Dopodiché puntualmente nessuno vinceva, e allora veniva fuori la storia del malocchio. Per chi ci crede, ci cade sicuramente. Dice, in questo io dico anche una critica, cioè bisogna essere un po' predisposti, no? Anche. Ma quello è che dopo aver essere stati imbrogliati, mica tacciono perché si vergognano dalla gente, dai mariti magari anche, dai familiari, perché magari sono cose che hanno fatto da soli, o una moglie, o un figlio. Fatto da soli e senza consultare in famiglia, e poi dopo, se sono stati imbrogliati, tacevano per forza. Certo. Stefano Zurlo, nel chiudere, tra l'altro la vicenda che tu tratti, anche la vicenda del Mago del Nascimento, che credo sia ancora in Brasile, cioè non ha mai scontato. Sono andato a intervistarlo a Bahia, lui è a Bahia, tecnicamente latitante. Siccome però lui ha avuto una pena molto più bassa, perché ha scelto il rito abbreviato, insomma in modo più defilato, non davanti alle telecamere come le due signore, cioè la madre e la figlia, le due Marchi, a questo punto lui con l'indulto è sceso dalla condanna a 4 anni, è sceso quindi, a 1 anno, insomma, quindi potrebbe, insomma, ha un piede già di partenza per tornare in Italia. Potrebbe anche tornare in Italia. Sì. Sul fatto invece, visto che ha incontrato tante persone che sono state vittime, ecco, questa idea totalmente innocenti e raggirate, o un pizzico, come dire, di ingenuità? Sicuramente, un pizzico quasi di colpevolezza, se si vuole, anche loro, oppure no? Ma sì, nel senso che, come diceva prima la signora Fosca, si comincia magari quasi per scherzo, per gioco, con questi numeri, e poi però piano piano tu vieni avvolto in questo meccanismo. Poi momenti di solitudine, momenti di disperazione, momenti di paura, momenti di noia, ce li possono avere tutti. È chiaro che quando tu dici, come ho sentito io in aula, uno che ha detto ho dato 500 milioni di lire nell'arco di 7 anni e il mio problema era controllare se si scioglieva o no il bicchiere di sale, oppure se il rametto faceva la foglia, e allora voglio dire, certo, c'erano, uno rimane sbalordito. Però si rimane sbalorditi anche a leggere, come racconto nel libro, quando Pinocchio incontra il gatto e la volpe e gli dicono tu pianta l'albero degli zecchini d'oro, gli dicono no, cospargilo di sale e vedrai che domani ci sarà, no, tu metti lì gli zecchini sottoterra, li cospargi e domani ci sarà l'albero. No, certo, drammaticamente questa non è una favola, drammaticamente. Purtroppo sono migliaia di persone, come accennavamo prima, certo, sono moltissime quelle che non hanno mai denunciato la cosa, perché poi queste cose incredibilmente duravano anni. Sì, sì, e nessuno le denunciava. No, ma questo è infatti il problema. Io mi devo fermare, ringrazio Stefano Zurlo, La strega della TV, Vanna Marchi, Bietti Media Albatros, come libro, così come la signora Fosca Marcon. Ci fermiamo qui, ringraziando tutti, Laura Marchesi, Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Do la linea a Giuliano Ferrara con Parliamo con l'Elefante, noi ci ritroviamo lunedì mattina.